Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su Radio Città Fujiko. Oggi parliamo un po' di musica e soprattutto parliamo di un grandissimo ritorno. Infatti sono qui con Francesco De Leo per parlare dell'ultimo album dell'Officina della Camomilla. Ciao ragazzi! Buongiorno. È stato un ritorno atteso perché sono passati 8 anni da Palazzina Liberty, che è stato l'ultimo progetto musicale marchiato Officina della Camomilla. Avete deciso di tornare con un album, che è Dreamcore, ricco di immagini, di citazioni. Qual è il background dietro questo album? Diciamo che è un disco un po' tutto pazzerello, scollegato, sconnesso, cioè... Se una canzone dell'Officina dovesse essere dipinta con un'immagine, potrebbe essere, non so, un Huxley che va in bicicletta un po' così alterato e ha delle visioni e finisce in un universo parallelo, fatto di un sacco di influenze che sono un po' il nostro, diciamo, background culturale. Possiamo citare alcuni nomi, tipo, non so, di band bandiera per l'Officina come i Moldy Peaches, o i Cocteau Twins, tutto un immaginario cinematografico come Harmony Korine, Goosebumps Sun. Citiamo molto tutti i nostri film e libri del cuore, li riversiamo su carta in un modo anche un po' così, se vuoi, folle, creativo, ecco. Ci sono tante citazioni del nostro immaginario di quando eravamo più giovani, ora al cinema d'autore indipendente, un po' a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 0, anche quando, che è lo stesso periodo in cui è nata l'Officina. Alla fine è un gruppo un po' retro, siamo ritornati adesso, inspiegabilmente mi viene da dire, perché sono successe tante cose bizzarre, tipo una fan base che si è creata dal nulla in questi anni in cui eravamo fermi. Vi ho visti sbucare su un sacco di video di TikTok ed è una cosa che fa piacere, immagino. Più che altro trovare questo nuovo riscontro dalle nuove generazioni ci fa strano, è molto bello, perché anche da un punto di vista live noi ci ritroviamo ai nostri concerti con questa, diciamo, nuova folla di persone molto giovani, mm-hmm. E mi fa pensare che sia successo qualcosa di importante in questo periodo, ma del tutto spontaneamente, cioè non abbiamo cercato mai, non so, di raggiungere un vastissimo pubblico, non abbiamo mai avuto un boom mediatico, televisivo. Però è bello perché appunto si è creato spontaneamente questo passaparola. Uh-huh. Dopo così tanto tempo qui non avete pubblicato nulla come Officina della Camomilla, com'è stato tornare a pubblicare un album? Che cosa avete trovato di diverso intorno a voi? Beh, innanzitutto questo nuovo panorama musicale che quando abbiamo iniziato non c'era. Prima era un po' diversa la scena, c'erano gruppi più storici, anche se, che so, alle luci della centrale elettrica o il teatro degli orrori o Io Flaga Disco Fax, c'era più un altro tipo di wave, di contesto, non si era ancora arrivati a questa sorta di post-pop di Spotify, non esisteva Spotify e si facevano ancora i dischi, noi stampavamo le nostre demo, le mandavamo in giro alle varie etichette per farci produrre un disco. Infatti poi abbiamo anche registrato con Garrincia, uh-huh, ben 3 dischi. Sicuramente si è evoluto in positivo, perché adesso c'è un sacco di nuovo pubblico che va a vedere i concerti, una scena proprio, cioè, bella frizzantina, dove sì, ci sono un sacco di giovani che vengono a vedere i concerti. Cioè, io mi ricordo che all'epoca non era così, poi adesso è esploso da un bel po' di anni questa nuova forma di, diciamo, canzone anche un po' più pop, e niente, noi siamo ritornati e parliamo a queste nuove generazioni e siamo felici di farlo. Però è bello che comunque, nonostante una diffusione che possiamo definire un po' più pop, voi non siate diventati pop. La musica dell'Officina della Camomilla è rimasta la stessa, nel senso che ovviamente sono brani nuovi, però siete sempre tanto riconoscibili, quindi è bello che anche la generazione successiva si possa identificare in voi e in quello che cantate. Sì, l'attitudine è rimasta quella, diciamo, un po' del do it yourself, infatti noi ci ispiriamo a tutti questi gruppi, tutte realtà che poi sono andate a crearsi anche delle etichette discografiche. Anche noi Officina abbiamo tirato sulla nostra etichetta, perché l'attitudine che portiamo avanti, in cui ci rispecchiamo, è questa, cioè rimanere sempre nell'ambito culturale underground, cioè poi vogliamo anche ampliare a un pubblico più vasto possibile le nostre cose, però diciamo che... Rimanendo voi stessi, Sì, sì, sì, rimanendo noi stessi, giusto, giusto. Questo pubblico amplissimo, come dicevamo prima, sarà anche a Bologna. Infatti avevate programmato una prima data per il 16 marzo, che è andata sold out al Locomotive, e quindi ce n'è una seconda il giorno successivo, il 17 marzo, per cui ci sono ancora biglietti. Com'è l'idea di tornare a Bologna? Che rapporto avete voi con questa città? Allora, Bologna, cioè, per l'Officina è una città fondamentale, anche perché abbiamo registrato praticamente tutti i dischi lì, e per noi è speciale, forse più che in altre città, ritornare a Bologna, che è anche un po' la culla di tutta la musica underground, tutti i gruppi, cioè è una città molto musicale, ci sono tantissimi locali dove suonare, tantissimi eventi tutte le sere. Sì, è una città d'arte, culturale, cioè dovrebbero essere un po' tutte le città d'Italia come Bologna, e in ogni caso tornarci dopo 8 anni e trovare addirittura, diciamo, un sold out più una seconda data è veramente una cosa assurda per noi, e sinceramente non vediamo l'ora di venire a suonare. E noi di venirvi a vedere. No, vi aspettiamo di brutto, cioè. Ti ringrazio tantissimo, Francesco, per averci un po' raccontato un pezzo dell'universo dell'Officina della Camomilla. Prima poi di salutarci, ovviamente ascolteremo un brano dell'ultimo disco, che è uscito il 19 gennaio. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, dai, ci vediamo. Siamo comodi, facciamo un po' di casino. Dai, grazie, allora un bacio.